Diciassettesimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, diciassettesimo canto. Ecco la fiera con la coda aguzza che passa i monti e rompe i muri e l'armi. Ecco colei che tutto il mondo appuzza. Sì, cominciò lo mio duca a parlarmi, e accennolle che venisse a Proda, vicino al fin di passeggiati marmi. E quella sozza imagine di Froda sen venne, e arrivò la testa e il busto, ma n su la riva non trasse la coda. La faccia sua era faccia d'uom giusto, tanto benigna avea di fuor la pelle, ed un serpente tutto l'altro fusto. Due branche avea pilose in sin l'ascelle, lo dosso e il petto e ambedue le coste dipinti avea di nodi e di rotelle. Con più color sommesse e sovrapposte non fer mai drappi tartari né turchi, né fuor tai tele per aragne imposte. Come tal volta stanno a riva i burchi, che parte sono in acqua e parte in terra, e come là tra li tedeschi lurchi lo bivero s'assetta a far sua guerra, così la fiera pessima si stava su l'orlo ch'è di pietra e il sabbion serra. Nel vano tutta sua coda guizzava, torcendo in su la venenosa forca, ch'a guisa di scorpion la punta armava. Lo duca disse: or convien che si torca la nostra via un poco insino a quella bestia malvagia che colà si corca. Però scendemmo alla destra mammella e 10 passi femmo in su lo stremo per ben cessar la rena e la fiammella. E quando noi a lei venuti semo, poco più oltre veggio in su l'arena gente seder propinqua al loco scemo. Quivi il maestro, acciò che tutta piena esperienza d'esto giron porti, mi disse, va e vedi la lor mena. I tuoi ragionamenti sien là corti, mentre che torni parlerò con questa che ne conceda i suoi omeri forti. Così ancor su per la strema testa di quel settimo cerchio tutto solo andai dove sedea la gente mesta. Per gli occhi fora scoppiava lor duolo e di qua di là soccorrien con le mani quando a vapori e quando al caldo suolo. Non altrimenti fan di state i cani o col ceffo o col piè quando son morsi o da pulci o da mosche o da tafani. Poi che nel viso a certi gli occhi porsi, nei quali il doloroso fuoco casca, non ne conobbi alcun, ma io m'accorsi che dal collo a ciascun pendea una tasca ch'avea certo colore e certo segno, e quindi par che il loro occhio si pasca. E com'io riguardando tra lor vegno, in una borsa gialla vidi azzurro, che d'un leone avea faccia e contegno. Poi, procedendo di mio sguardo il curro, vidine un'altra come sangue rossa, mostrando un'oca bianca più che burro, e un che d'una scrofa azzurra e grossa segnato avea lo suo sacchetto bianco, mi disse: che fai tu in questa fossa? Or te ne va, e perché se vivo anco? Sappi che il mio vicin vitaliano sederà qui dal mio sinistro fianco. Con questi fiorentin son padoano. Spesse fiate m'intronan gli orecchi gridando: vegna il cavalier sovrano che recherà la tasca con 3 becchi. Qui distorse la bocca e di fuor trasse la lingua, come bue che il naso lecchi. E io, temendo non più star cruciasse lui che di poco star m'avea ammonito, tornammi indietro da l'anime lasse. Trovai il duca mio che era salito già sulla groppa del fiero animale e disse a me: or sì è forte e ardito, omai si scende per sì fatte scale. Monta dinanzi, ch'i voglio esser mezzo, sì che la coda non possa far male. Qual è colui che sì presso al riprezzo della quartana, c'ha già l'unghie smorte e triema tutto pur guardando il rezzo, tal divennio alle parole porte, ma vergogna mi fe le sue minacce, che innanzi a buon signor fa servo forte. I m'assettai in su quelle spallacce. Sì volli dir, ma la voce non venne, com'io credetti, fa che tu m'abbracce. Ma esso, ch'altra volta mi sovvenne ad altro forse, tosto ch'i montai con le braccia m'avvinse e mi sostenne, e disse: Gerion, moviti omai, le rote larghe e lo scender sia poco, pensa la nova soma che tu hai. Come la navicella esce di loco indietro indietro, sì quindi si tolse, e poi ch'al tutto si sentì a gioco, là vera il petto la coda rivolse, e quella tesa come anguilla mosse, e con le branche l'aere a sé raccolse. Maggior paura non credo che fosse quando Fetonte abbandonò li freni, perché il ciel come pare ancor si cosse, né quando Icaro misero le reni sentì spennar per la scaldata cera, gridando il padre a lui: ma la via tieni, che fu la mia quando vidi chi era nell'aere d'ogne parte e vidi spenta ogni veduta fuor che della fera. Ella sen va notando lenta lenta, rota e discende, ma non me n'accorgo se non che al viso e di sotto mi venta. Io sentia già dalla man destra il gorgo far sotto noi un orribile scroscio, perché con gli occhi in giù la testa sporgo. Allor fui io più timido allo stoscio, però chi vidi fuochi e sentì i pianti, ond'io tremando tutto mi raccoscio. E vidi poi, che non vedea davanti, lo scendere e il girar per li gran mali che s'appressavan da diversi canti. Come il falcon che è stato assai su l'ali, che senza veder logoro l'uccello, fa dire al falconiere: omè, tu cali! Discende lasso onde si muove snello, per 100 rote e da lunge si pone dal suo maestro disdegnoso e fello. Così ne puose al fondo Gerione, al piè della stagliata rocca, e discarcate le nostre persone, si dileguò come da corda cocca. Fine del 17° canto dell'Inferno.